da za lagu wa elau khagu no be khau fe fu la sai tu na zi to noi khagu me fa o ma si Tari umane ufuli furi no tafai.